Direi che il mobile è prettamente legato al mondo dei cellulari. Il mondo delle console portatili rientra in quello che è il giochi per console, sviluppa un fatturato diverso perché chiaramente il price point è diverso, parliamo di giochi per piattaforme console mobile da 40 euro, mentre il price point per i giochi per cellulare sono di 5 euro. Tuttavia, devo dire che il potenziale maggiore è sicuramente legato alla telefonia mobile, vista semplicemente la diffusione dei cellulari rispetto alle console mobile. Quando parliamo di videogiochi per il telefonino o per le console portatili, ma prevalentemente per il telefonino, a che tipo di giochi stiamo facendo riferimento? E vorrei capire anche che cosa è cambiato negli ultimi anni. Allora, i progressi nel mondo dei videogiochi per cellulare sono incredibili, si vede la differenza di 6 mesi in 6 mesi addirittura. Non è come nel mondo delle console in cui si aspettano diversi anni per vedere una next generation. Fondamentalmente adesso siamo partiti con quello che è la piattaforma Java, che è quella più comune su tutti i cellulari, anche se adesso stanno entrando nuove tecnologie. Nokia ha presentato il suo nuovo piano Engage, che in pratica è un ambiente di sviluppo per i giochi, che è di fatto una next generation del mondo dei cellulari. Ma la stessa differenza di prestazione tra i cellulari di 2-3 anni fa e quelli di adesso, ma anche di appunto 6 mesi in 6 mesi, segna una notevole differenza nella qualità dei giochi Java attualmente. Parliamo di giochi che prevalentemente sono, almeno i più popolari, sono videogiochi che già conosciamo nel mondo delle console tradizionali o sono giochi nati, pensati, sviluppati per il telefonino? Allora, direi che in generale i giochi che vendono di più sono sicuramente i giochi branded, quindi i giochi che hanno un nome riconosciuto. All'interno di e parliamo probabilmente dell'80% viene dai giochi branded. All'interno di questi giochi branded però esistono diverse tipologie. Esistono i giochi che provengono dal mondo della console, quindi possono essere il gioco di calcio famoso, il gioco di corse famoso, ma possono essere anche licenze cinematografiche, quindi il gioco del film del momento, come poi anche altri classici del gaming retro, come può essere un gioco come Puzzle Bubble o Tetris. Mediamente quanto costa un gioco per telefonino? Beh, diciamo che ci sono di tutti i prezzi. Noi come Electronic Arts ci poniamo nella fascia alta, che è quindi quella dei 5-6 euro, però ci sono anche dei giochi da 3 euro, anche di meno. Chiaramente molto spesso i giochi con un prezzo inferiore o sono relativi a delle vecchie versioni dei giochi, oppure dei giochi che non hanno particolare valore.